con l'attrice Paola Caldarola per parlare dello spettacolo La Romana Repubblica, quando il popolo diventò sovrano. A Roma, al Museo Ossario Garibaldino, mercoledì 3 luglio 2019. Paola, ben trovata. Salve, ben trovati a voi. Raccontiamo brevemente lo spettacolo? Sì, allora, questo spettacolo che è prodotto dall'Associazione Culturale Controchiave, della quale faccio parte anch'io, è uno spettacolo che racconta questo evento risorgimentale che è avvenuto a Roma nel 1849. È uno spettacolo di musica e teatro, c'è la musica dal vivo, siamo 7 attori e 5 musicisti. E raccontiamo appunto con musica e parole questo pezzo di storia di Roma, che è di storia d'Italia, che è abbastanza sconosciuto nei libri di storia, viene citato in poche righe, eppure è un evento molto importante e molto eroico anche per la nostra città. Questo spettacolo nasce appunto dalla volontà della nostra associazione di raccontare, è partito nel 2016 questo progetto, una storia eroica della nostra città, e scartabellando ci è venuto in mente questo. La Repubblica Romana durò soltanto 5 mesi, eppure in questi mesi è riuscita a portare avanti un progetto rivoluzionario, una Costituzione che noi diciamo appunto nello spettacolo ha semplicemente anticipato 100 anni la Costituzione italiana, che poi appunto è stata approvata 100 anni dopo. Ma è stata anche un modello per altre Costituzioni a livello globale. Sì, infatti è stato veramente un momento molto particolare della storia, perché è nato la rivoluzione, diciamo, che portò poi alla Repubblica Romana, è stato un movimento trasversale anche sotto il profilo sociale, perché coinvolse sia la nobiltà illuminata dell'epoca che anche il popolo. E volontari anche da tutto il mondo. Volontari da tutto il mondo, e questo è veramente un momento particolare, anche perché se pensiamo a quando è stata approvata quella Costituzione, stabiliva non solo che appunto si trattasse di una Repubblica, stiamo parlando dello Stato Pontificio all'epoca, ma di uno Stato laico. Per la prima volta si diceva che l'appartenenza religiosa non avrebbe non sarebbe stata condizionante per nessun effetto della vita sociale. Veniva abolita la pena di morte, era stabilita la libera manifestazione del pensiero e la libertà di associazione, diritti civili che appunto soltanto poi 100 anni dopo in Italia si sono concretizzati. E per noi, tra l'altro, rappresentarlo in quel luogo, come dicevi tu, nel mausoleo Garibaldino, è un momento veramente particolare. Lì sono sepolti Goffredo Mameli, che morì proprio durante la Repubblica Romana ad appena 20 anni, oppure Colombo Antonietti, perché in questa storia della Repubblica Romana è anche una storia molto importante di partecipazione politica delle donne, e appunto Colombo Antonietti, della quale si parla molto nello spettacolo, è forse il personaggio più noto, ma ce ne sono state tante altre. Su quale documentazione avete messo mano? Allora, guarda, la documentazione è stata molto, molto approfondita, perché come ti puoi immaginare uno spettacolo del genere chiaramente richiede un grande studio, quindi sono stati studiati maggiori testi che riguardano la Repubblica Romana, dal Fondo Spada ai testi di Marco Severini, di Ugo Ricciarelli, Villari, Giuseppe Veghetti. Insomma, è stato uno studio che è durato molto e che si è approfondito anche, devo dire, nel corso del tempo, anche proprio studiandolo noi stessi, perché c'è una regia collettiva di questo spettacolo. Noi come associazione ci teniamo molto a questo concetto della regia collettiva, gli attori e anche i musicisti partecipano alla messa in scena e alla realizzazione in tutti i suoi aspetti. Ed è un modo anche per sentire per noi lo spettacolo in modo diverso che semplicemente, tra virgolette, recitando o suonando un pezzo. Su cosa avete voluto centrarlo? Com'è strutturato lo spettacolo? Allora, lo spettacolo, diciamo che si apre come se fossimo in un'osteria romana, perché all'epoca vigeva anche questa consuetudine del duello di parola, ci si ritrovava appunto nelle osterie, anche lì erano presenti tutti i pezzi della società in quel momento, e si discuteva dei fatti che accadevano, che stavano accadendo. E quindi lo spettacolo nasce appunto in un'osteria, questa osteria poi a un certo punto diventa tante altre cose, diventa il campo di battaglia, diventa l'assemblea costituente, nella quale i costituenti approvano articolo per articolo la Costituzione, mentre i francesi, chiamati dal Papa, bombardano e cannoneggiano e poi entrano in città decretando la fine di questa esperienza, ma appunto i costituenti dell'epoca decisero di approvarla comunque per dare questo lascito, diciamo, al popolo e all'Italia intera che volevano unita in quel momento. Sulla scelta delle canzoni? Allora, la musica è stata composta dai nostri musicisti, appunto dai musicisti dell'associazione che partecipano allo spettacolo, ed è un'interpretazione moderna presa sia dalle musiche dell'epoca con contaminazioni di vario tipo. È una musica molto bella, devo dire, per chi verrà a vedere e a sentire lo spettacolo ne verrà sicuramente colpito. Ci dai tutti i riferimenti internet per maggiori dettagli? Sul nostro sito www.controchiave.it trovate tutto, anche sull'associazione e sulla Festa per la Cultura, perché questo spettacolo fa parte della manifestazione Festa per la Cultura, l'evento finale che è iniziato in 3 giorni a giugno, 14, 15 e 16 giugno, e poi se volete ci potete cercare sulla nostra pagina Facebook Associazione Controchiave, dove postiamo tutto quello che riguarda la nostra attività. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento a Roma al Museo Ossario Garibaldino mercoledì 3 luglio 2019 con lo spettacolo La Romana Repubblica, quando il popolo diventò sovrano. Un saluto e un ringraziamento a Paola Caldarola che ce ne ha parlato. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie, ciao.